Buongiorno a tutti e tutte, buon lunedì di Pasquetta. Ci prendiamo un po' di tempo tra una grigliata e una serata tranquilla per parlare di carcere con i compagni e le compagne, in questo caso solo compagni, del Comitato Autonomo Abitanti Barona, che sabato ha fatto un'iniziativa con degli avvocati per parlare della situazione delle carceri italiane in questo momento, che sono, diciamo, oltretutto i problemi che già hanno, vengono messi in grossa difficoltà dal diffondersi del coronavirus anche dentro il carcere. Ne parliamo con Siddi e Mauri, che adesso ci raccontano un po' com'è andata l'iniziativa di sabato. Chiedo scusa, sono il solito dislessico, ma non ci posso fare niente, però la prossima volta farò meglio. Prego, parlate voi. Ciao a tutti, ciao, mi chiamo Maurizio. Allora, in poche parole, più in generale abbiamo parlato sì della situazione carceraria in Italia, ma diciamo delle proteste che si sono svolte in più o meno tutte le carceri in tutta la penisola e come ha, diciamo, reso lo Stato, quali sono state le misure sotto questa emergenza sanitaria. Abbiamo parlato appunto con l'avvocato Guido Guella e Eugenio Losco. In poche parole, se a metà febbraio in Italia si parlava già di coronavirus, solo verso il 7 marzo le istituzioni carcerarie hanno comunicato appunto di questa emergenza sanitaria, non dando subito adeguate soluzioni come mascherine, ma subito chiudendo i rapporti con i colloqui. Quindi sono, diciamo, già il primo, diciamo, baluardo di speranza, di rassicurazione, vedere i familiari. Dopo tutte le associazioni che ci lavorano all'interno non ci hanno più messo piede, e loro ovviamente presi dalla paura, perché le distanze di sicurezza di un metro non si possono prendere, e ripeto, altre adeguazioni al problema non sono state attuate subito, e da lì sono state delle rivolte, comunque delle proteste, delle azioni, dall'occupazione di aree a non entrare in cella, a prendere il tetto dell'ospedale, diverse modalità, ovviamente per far sì che il problema venisse a galla, perché già sappiamo che dentro il carcere non vige, diciamo, la Costituzione che fu formata uno Stato dove ha il carcere su interno, ma hanno un mondo a sé. E niente, quindi il susseguirsi di queste rivolte ha portato delle morti. Queste morti ovviamente state prima di tutto non subito riferite, e da lì infatti ci sono stati molti esposti dei garanti, dei detenuti per questa situazione qua, e poi sono venuti a galla appunto questi morti, e sono una decina, 11, 12, non si sa ancora bene, tutte per overdose, hanno detto. Ovviamente qua non si può sapere fino all'autopsia, e anche ovviamente questa cosa fa anche un po' storgere il naso, diciamo che tutto il caos e la situazione che c'è, le persone che vanno a morire di overdose, forse il problema allora che non devono neanche stare in carcere, perché possono una persona essere seguite in un'altra maniera, in ogni caso, esempio. Queste leggi, diciamo, questo decreto attuato nelle carceri ha creato scompiglio, perché non rassicurando della posti idonei, non riuscendo a rassicurare il metro di distanza, perché le carceri, il problema è prima di questa emergenza sanitaria, è il sovraffollamento. Le carceri italiane, e adesso siamo più o meno a 60.000 detenuti all'interno delle carceri, quando i posti effettivi sono 45.000, 50. Quindi già solo questo è il problema principale. E il problema secondario, appunto, è stato proprio la comunicazione data tardiva, con non delle soluzioni tempestive. Infatti, i colloqui o i premi, le semilibertà, state annullate e non subito cambiate o adeguate con le chiamate, videochiamate o plexiglass o quello. E niente, abbiamo parlato con i due avvocati e abbiamo fatto più domande nello specifico. Questa è, diciamo, la situazione in generale. Bene, infatti abbiamo fatto questa iniziativa, che è stata un'iniziativa online, in cui comunque siamo riusciti appunto a coinvolgere un po' di persone, anche per poter fare qualche domanda a questi due avvocati, ripetiamo, si chiamano Ugo Guella e Eugenio Losco. Abbiamo parlato della situazione recente delle carceri, però in realtà non è un problema recente, come Maurizio stava dicendo. Il problema del sovraffollamento è un problema strutturale del carcere, oltre che quello anche della sanità, di quello che succede, anche semplicemente la sola presenza di medici diciamo, non è sufficiente a garantire un diritto alla salute dei detenuti, e questo già in precedenza. Quello che è successo ultimamente non fa altro che rendere evidente questo problema già esistente. Poi esattamente quali sono i numeri dei contagi del carcere non ci è dato saperlo, perché se già stiamo vedendo che già all'esterno del carcere c'è una grande difficoltà a fare i tamponi, insomma, diciamo, anche a misurare la portata del contagio, figuriamoci all'interno del carcere. Io adesso questo non abbiamo parlato l'altro giorno, però ho letto un articolo di Travaglio, che Travaglio conosciamo per esempio le sue posizioni, sosteneva che, dati i numeri alla mano, all'interno del carcere ci si contagia di meno rispetto che al di fuori. Sì, certo, perché i dati che vengono dal carcere sono palesemente sottostimati. Invece è stato, diciamo, tra virgolette, smentito sottoscritto da altre notizie molto recenti, quindi stiamo parlando dell'altro ieri, 3 giorni fa, riferite al carcere di Torino e in particolare anche a Milano, il carcere di San Vittore. Per esempio, nel carcere di Torino è stato fatto un esame a campione tra i detenuti, e su 60 detenuti, circa 20, erano risultati positivi al virus. Ovviamente stiamo dicendo che già il sovraffollamento è già veicolo di qualsiasi malattia, diciamo, infettiva. Qui ne troviamo tantissime in carcere, e adesso, in questa piena emergenza sanitaria, lo Stato sta facendo di tutto, diciamo, pur di non garantire i diritti di base, non dico una cosa di più, ma i diritti di base dei detenuti in questo momento. Diciamo che vengono al massimo facilitate, semplificate le procedure per mandare domiciliari detenuti, ma come ci hanno sottolineato gli avvocati 2 giorni fa, queste procedure sono cose che, insomma, già dovrebbero esistere, quindi non stiamo chiedendo una cosa in più rispetto a quello che già l'ordinamento prevede, l'ordinamento giuridico italiano prevede. Ecco, noi abbiamo fatto questa intervista di cui abbiamo fatto, sì, con i compagni della Barona, ma anche con il nostro side project, che è un sito contro la repressione che si chiama amarci.blog. Infatti, tra pochi giorni uscirà l'intervista sul nostro sito, così come sono stati la settimana scorsa, abbiamo pubblicato anche un'intervista relativa al Pakistan e anche la situazione in Pakistan. Adesso non ne parliamo magari, ma volendo si può andare ad ascoltare l'audio, e magari se voi volete possiamo anche provare a trasmettere. La cosa può interessare è un'intervista di circa 1 ora e mezza che abbiamo fatto Davide Grasso. E sicuramente poi ci saranno anche altri appuntamenti relativi sia alla questione della repressione. Per esempio, stavamo discutendo con un altro avvocato, un'avvocata che si occupa di diritto penale dei migranti, ed è stata ultimamente a Lesbo, dove è al confine, diciamo, tra la Turchia e la Grecia, e quindi può essere anche interessante parlare con lei. Possiamo anche magari condividere questo appuntamento se a voi interessa, possiamo anche così, diciamo, fare un'intervista comune. Sicuramente poi comunque anche quello verrà pubblicato su amargi.blog. Se posso farvi giusto un paio di domande, se riuscite a sentirmi, perché mi sto alzando il volume da solo e non so il risultato. Perfetto. Allora, una domanda che mi viene subito è se appunto nell'ambito della vostra iniziativa avete parlato anche un po', proprio nello specifico di CPR, altri luoghi di detenzione, non detenzione, quella formula tutta italiana, per cui ti tengo in un posto che è molto simile al carcere, ma non sei un carcere, ma sei un ospite. Se avete parlato anche di questo, volevo chiedere anche un attimo qual è la situazione lì, perché invece, a quanto emerge da detto stampa, non ci sono state rivolte, però, cioè, qual è la situazione dentro i CPR? Quindi, se volete, iniziamo da qua e poi ho un altro paio di domande, così che mi sono venute al volo. Prego. Rispondetemi Allora, pure non abbiamo chiunque. parlato della situazione CPR perché appunto aspettavamo di farlo con l'altra avvocata, proprio perché si occupa essenzialmente di questo. Allora, stando però sia alle notizie che arrivano, noi anche ci siamo fatti 2 chiacchiere al di fuori di questa intervista, e E sì, lì ne abbiamo parlato a telefono con gli avvocati, io in particolare con questa avvocata che si chiama Marika Surace, e dice che in realtà molti CPR stanno venendo svuotati. Se non sbaglio, soltanto forse quello di Torino, quindi di via Brunelleschi, pare che sia attivo, mentre tanti altri li stanno svuotando. O quantomeno, anche come sottolineavano gli avvocati, non si stanno riempiendo in realtà. Quindi non ci sono, alle notizie che ci arrivano, non ci sono state particolari rivolte o non ci sono stati, diciamo, nuovi detenuti, nuove detenzioni, forse anche per quello, diciamo, tra virgolette, è stato svuotato. Sì, scusami, allora se magari la domanda che faccio adesso è troppo specifica. Questo vuol dire che verosimilmente alle forze dell'ordine è stato detto dal Ministero di non fare arresti, di non portare in questura persone magari extracomunitarie, clandestine, perché tanto non c'è luogo dove metterli o non ci si vuole accollare la responsabilità di creare assembramenti nei luoghi di detenzione. Per cui, cioè, se sapete la risposta, non lo Allora, so, è un film che mi sto facendo io. credo che, vabbè, l'arresto in realtà sta all'autorità giudiziaria, quindi sono due, diciamo, organi differenti. La polizia, quello che sappiamo, sta continuando tranquillamente a fare denunce. Per esempio, una nostra compagna della Varona, che è una signora peruviana che appunto non ha la famiglia in Italia, tra l'altro è legata alla questione del... Insomma, non del virus, ma si sentiva male e essenzialmente ha chiamato un'ambulanza e una pattuglia della polizia che era in piazza Miani in quel momento l'ha anche identificata e dopo che le hanno preso i parametri vitali l'ambulanza non l'ha portata in ospedale e invece la volante l'ha portata in questura di Milano, in via Fatebenefratelli, dove dopo circa 6 ore l'hanno lasciata andare con la denuncia del 10 bis. Che appunto è il reato per diciamo, la clandestinità. Anche questo ovviamente è stata occasione per parlare con gli avvocati di questo fatto. Abbiamo anche sentito alcuni del Naga. Naga ci dicono che ultimamente non arrivano queste notizie, però purtroppo li abbiamo dovuti smentire, tra virgolette. Ecco, quindi a me sembra che la polizia in realtà stia continuando a fare questo lavoro. Poi in realtà, come in realtà qualsiasi altro tipo di reato, sono molte meno le carcerazioni. Chiedo scusa perché c'è sempre questo problema tecnico che devo allungare il braccio fino al mixer per riuscire ad alzarmi il volume da solo. E l'altra cosa che mi veniva da domandarmi prima mentre Mauri parlava, definiva il fatto che, cioè, che sarà sicuramente purtroppo una grande realtà che io non conoscevo, cioè nelle carceri italiane non c'è la Costituzione, vige un altro tipo di Ti abbiamo micromondo. sentito. Ah, Scusa, chiedo sei andata scusa. via la connessione. Queste sono Siamo le riusciti a gioie delle sentire. dirette su Zoom che vanno e vengono, ma va bene, noi andiamo avanti lo stesso. Quindi ripeto, no, la prima Mauri, mentre parlava di quello che avete discusso nel vostro incontro, parlava del fatto che dentro le carceri non c'è la Costituzione, c'è un micromondo a parte. E quindi, in virtù di questo micromondo, la gestione di quello che è stata l'emergenza coronavirus ha avuto tutta un'altra disciplina. Cioè, avete la possibilità di farci un piccolo racconto di cosa vuol dire il micromondo dentro un carcere, da cui possiamo anche capire come hanno gestito poi l'emergenza. Io a questo punto mi riabbasso il microfono e prego. Allora, appunto, ritornando al fattore principale che viene prima di questa emergenza sanitaria, appunto, è il sovraffollamento. Come ho detto prima, diciamo un esubero di più di 15.000 persone all'interno del carcere, oltre al sistema giudiziario che attualmente ci troviamo con il 36, 34 più o meno, persone detenute in attesa di giudizio. E quindi fino a prova contraria non ancora colpevoli, che sono all'interno del carcere. Quindi all'interno ovviamente del carcere sì, c'è un micromondo a sé, per fortuna basato sulla solidarietà. Io per mia brevissima esperienza personale nel carcere di San Vittore, che comunque a sentire altri racconti non è il peggio delle carceri, c'è la solidarietà, sì, divisa per nazionalità, quello sì, ma diciamo che all'interno delle celle no, nel senso, poi nelle aree comuni si creano più gruppetti, ma nella città ovviamente c'è e per fortuna che c'è questa solidarietà, perché uno si trova spaesato, all'inizio non sa neanche che non può fare la famosa chiamata a casa, in realtà quella la puoi fare dopo un po' di giorni, però qualsiasi persona non avendone mai avuto contatto, ovviamente chiede, non viene le risposte, si trova in una cella con persone sconosciute ed è proprio quello il punto fondamentale, la convivenza e il rispetto nelle persone. Di sicuro in questa occasione qua, loro dopo 2 settimane che ti leggi i giornali o guardi la tele questa psicosi del virus e ti ritrovi a 20 centimetri a dormire attaccato alle persone, molto probabilmente tante sono già hanno già dei problemi respiratori o dei altri problemi, quindi molto probabilmente si sa anche appunto che quindi questo virus è letale se qualche persona già non sta bene di sua. All'interno del carcere ne troviamo tantissime persone che comunque non vengono curate, quindi lasciate a sé. Ulteriormente è ovvio che si crea il panico totale. Senti dire in giro che forse hanno fatto male perché si sono aggravati la situazione. Beh, comunque, fatto sta che a prescindere dalle modalità, questa cosa non veniva fuori se non si faceva un minimo qualcosa, perché tuttora la situazione è in degenero totale e la risposta comunque dello Stato o comunque delle istituzioni carcerarie in quel momento, ovviamente, non sono state dolcetti, ma sono state ritorsioni fisiche e via dicendo. Insieme, l'unica, diciamo, testimonianza un po' più diretta è stata fatta da un assistito di Losco, appunto, il suo assistito che sta nel carcere di Opera, che oltre aver subito ritorsioni il giorno seguente o il giorno dopo, ma anche nei giorni a seguire, intimidazioni per poi avere un altro pestaggio, cioè entrando ovviamente in 6-8 in una cella e prendendo calci e pugni. Questa è più una, diciamo, una testimonianza, tra virgolette, un po' più diretta, però sentendo su altri siti di informazioni, lettere, audio di parenti, i pestaggi sono avvenuti sistematicamente un po' da tutte le parti e a caso, cioè non è che differenziavano tanto il bravo o il cattivo, prendevi le botte e basta. Queste botte, a mio parere, hanno portato anche alla morte di quelle decine di persone, certe persone sono morte anche nel trasferimento del carcere. Quindi diciamo che se delle persone stanno male o comunque dovranno essere portate al pronto soccorso in ambulanza, non in un altro carcere a morire, o anzi, sentendo le testimonianze, anche essere ricevuti con altre botte. Quindi la responsabilità qua non è tanto difficile da capire dove che risiede. Poi, da travaglio al Fatto Quotidiano iniziano a uscire articoli che c'è la mano della mafia nelle rivolte del carcere italiano. Probabilmente in qualche carcere ci sarà, sì, ok, ma mi sembra un po' assurdo che in tutta Italia, tutte le rivolte, in modalità diverse, ed esempio a San Vittore, comunque il grande dei detenuti di Milano, della Lombardia, ha detto che San Vittore loro non avevano paura del corona, ma volevano fare appunto notizia del sovraffollamento, del problema, far risalire il problema del sovraffollamento, che è una cosa storica. E a San Vittore, ad esempio, ci sono tipo 12.000 detenuti e sono 8.000 posti, una cosa del genere. La Lombardia, ad esempio, è primato, diciamo, in Italia del sovraffollamento. Quindi questa mano, diciamo, della mafia, secondo me, è un po' per forse deviare la vera responsabilità, che è lo Stato, dalla malcomunicazione e dal problema principale che era già in essere, cioè il sovraffollamento. No, tra l'altro no, volevo dire, dicendo, hanno detto la stessa identica cosa anche dell'assalto ai supermercati, per esempio. Dicono, ah, la mafia organizza, sì, certo. Diciamo che lo Stato dà sicuramente il calcio d'angolo alla mafia per fare queste cose, però non è che sia effettivamente... Ah, Posso, mi è venuta in mente un'altra cosa appunto da aggiungere nella smentita del poco contagio, oltre appunto a quello che hai detto Silvi, sì, certo, dalle non notizie che escono e quindi i dati ne possiamo sapere quali sono effettivi, ma poi il contagio in primis è chi ci lavora all'interno, i secondini che entrano e escono, cioè nel senso il contagio non è che non c'è, la gente nuova che entra in carcere, cioè, è come se non c'è il contagio, e poi, come ho detto prima, tutte le persone che non stanno bene fisicamente e sono tante e anche anziane, ce ne sono al carcere. Questo di sicuro è stato uno dei problemi principali. No, io riguardo la rivolta nelle carceri, la cosa che mi ha fatto veramente più specie è stata vedere le immagini dell'esercito che si è mobilitato davanti al carcere di Palermo con la fila dei mezzi corazzati che vanno cioè, che corrono davanti al carcere. Cioè, mi è sembrata veramente l'assurdità di uno Stato che va a portare i carri armati davanti a un carcere per fare cosa? Per abbatterlo, per tirarlo giù a cannonate, per sprendere a cannonate la gente che scappa. Cioè, veramente una cosa assolutamente, secondo me, di spropositata violenza e anche assolutamente senza senso, perché c'è proprio mobilitare un dispositivo che non ha alcun tipo di riguardo rispetto a fermare una rivolta in un carcere. Cioè, al massimo avrei capito delle camminate della polizia, ma arrivare a schierare l'esercito mi è stata proprio l'ultima, proprio la follia totale, per cui, boh, non sapendo cosa fare, vabbè, mandando la gente con i carri armati a fermare una rivolta in un carcere. Detto questo, sì, ovviamente anche a me fa, come diceva prima Sidi, è sempre bellissimo vedere come quando la gente si auto-organizza contro lo Stato è sempre mafia, è sempre l'antigoverno, l'antistato, la criminalità organizzata, non è, può mai essere che la gente stufa marcia del sistema in cui vive, no, deve essere per forza esponente di un gruppo criminale che vuole farsi soltanto i propri interessi, ma fa niente. No, io invece volevo anche cercare di buttare un barlume di luce positiva, cioè c'è stata una reale ed effettiva implementazione delle misure alternative al carcere, come è stato fatto in paesi, cioè, che sono quasi quasi terroristici, tipo l'Iran. Cioè, l'Iran è riuscita a scarcerare 75.000 persone, e l'ha fatto l'Iran, che sono i mostri, il nemico dell'Occidente, con tanto di misure economiche restrittive da parte degli Stati Uniti d'America. In Italia, cioè, io spero che qualcuno sia riuscito a uscire prima o essere mandato ai domiciliari, ma ovviamente dubito che sia così. Rispondetemi pure, mi ritaccio di nuovo a basso volume, rispondete voi. Ciao. Allora, il problema diciamo che viene risolto indirettamente, no? Nel senso, come detto prima, non è tanto la gente che esce dal carcere in questo momento, quanto più il fatto che la gente non ci sta entrando, per la maggior parte dei casi. Quindi questo sta sicuramente riducendo il numero dei detenuti. Però effettivamente non è che i detenuti stiano uscendo, se non che con la misura, che appunto in realtà era già esistente, semplicemente che al di sotto di 18 mesi uno può chiedere appunto il trasferimento ai domiciliari, che è una misura limitata e sicuramente non si può applicare a un grande numero. Limitata perché non tutti hanno la casa dove andare ai domiciliari, una cosa, abbiamo parlato anche di questo, noi essendo anche un comitato di lotta per la casa. Seconda cosa, spostare tutti i domiciliari con i braccialetti elettronici sarebbe tecnicamente impossibile perché non esiste un numero abbastanza grande di braccialetti elettronici e questa è sicuramente una carenza gravissima dello Stato. E appunto, come abbiamo detto, è un problema strutturale. L'ha detto prima Maurizio, circa il 34-35% dei detenuti, cambia ovviamente la cifra di anno in anno, ma più o meno è quella, è in attesa di giudizio. Quindi anche lì basterebbe un attimino anche riformare questo sistema di misure cautelari. Però appunto per lo stesso motivo di prima non si sta facendo. Vedo che abbiamo solo 10 minuti prima che scade la sessione. Ho dimenticato cosa stavo dicendo. Ah, stavi parlando del fatto che mancano i braccialetti e quindi ci sono delle mancanze sistemiche nel sistema giudiziario che non può dare la possibilità a tutti quanti di usufruire di un proprio diritto. Esattamente, e questo diciamo è il problema principale. Ah sì, stavi parlando degli altri paesi, ecco. In Italia ancora non c'è una misura, tra virgolette, svuota carceri, come è stato detto e come hanno invece fatto in altri paesi. C'è da dire che in realtà, per esempio, nell'ultima intervista che abbiamo fatto a proposito del Kurdistan, abbiamo anche intervistato un compagno della rete Kurdistan Calabria, parlava della situazione, per esempio, persino in Turchia hanno fatto uscire dei detenuti con una specie di indulto. Ecco, però attenzione, i detenuti politici sono rimasti tutti dentro. sono usciti, tra virgolette, i detenuti peggiori, cioè i responsabili di femminicidio, di violenza, questo tipo di persone sono i detenuti che il compagno ci ha detto che sono usciti. Ecco perché in realtà dovrebbe essere tutto sommato una misura, sicuramente quello che suggerivano gli avvocati che si può fare adesso è semplicemente far applicare la legge, così come già esiste. E in più noi politicamente riteniamo che sia valida come proposta quella dell'amnistia generalizzata. Non so se Maurizio vuole aggiungere qualcosa. Ma sei più, diciamo, in generale nel mondo, esempio anche la Francia ha fatto comunque scarcerare 70.000 detenuti, ha 188 istituti, ha dato 100.000 mascherine, ovviamente il primo giorno, poi queste mascherine poi devi cambiarle, quindi anche lì non è che ha salvato. Però diciamo, si sono mossi in altri modi, in altri paesi. Hanno fatto esposti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, cioè, poi ovviamente come in Italia e in tutto il resto del mondo, il carcere è un mondo a sé, succede che in Colombia, il primo giorno di rivolta, ci sono 23 morti. In Brasile ne vadono 600 persone. Situazioni come sempre, lo Stato non ha potere all'interno del carcere e quindi questa emergenza è stata ricevuta come ampliata al 100%, quindi ingiustificabile, diciamo, di azione dimostrativa, diciamo, almeno. Ok, allora più o meno il tempo che avevamo a disposizione più o meno l'abbiamo esaurito. Io in realtà volevo chiedervi se adesso ci ripetete un attimo quali sono le prossime scadenze, il prossimo incontro, sempre sullo stesso argomento e i riferimenti dove si può trovare il materiale. A questo punto posso farlo anche già in diretta. Vi invito a mandarci il file audio dell'incontro perché noi possiamo pubblicarlo come podcast in radio e lo manderemo sicuramente. E poi speriamo che in futuro di poter ospitare una trasmissione costante, frequente e periodica che parla di carceri e di diritti di persone in carcere. Niente, vai, fateci voi il ricapitolo delle varie cose e poi pensate già a un brano da mandare perché come di consueto ci lasciamo con un po' di musica, diteci voi il brano. E niente, dai, diteci un po' allora dove possiamo trovare i vari materiali e poi lanciamo la canzone. Va bene, allora, mentre Maurizio pensa al brano, io vi do i riferimenti. Voi trovate già appunto l'intervista già uscita, quella su Kurdistan e le carceri turche, su il nostro sito contro la repressione www.amargi.blog. Amargi, che è una parola che vuol dire libertà in sumero, per i più curiosi. E vabbè, si trova anche sulla nostra pagina Facebook, che ovviamente è stato ricondiviso. Questa intervista che abbiamo fatto adesso uscirà probabilmente in settimana. Adesso non ci stiamo dando una cadenza regolare, però abbiamo delle idee per le prossime interviste. Come dicevamo prima, una sarà probabilmente intervistando un'avvocata specializzata nel penale dei migranti, che è stata a Lesbo, quindi ci racconta la situazione lì al confine. Un'altra che ci stava balenando per la testa era appunto parlare della questione delle misure di sicurezza che vanno prima del giudizio, per esempio. La sorveglianza speciale che è stata data a Eddie, la combattente che appunto è stata in Rojava, così come gli avvisi orali che stanno arrivando a tantissimi compagni, almeno a Milano abbiamo questa notizia, magari perché hanno partecipato a un corteo particolare, un corteo non autorizzato, per esempio al corteo per la liberazione di Vincenzo Vecchi, tantissimi compagni che conosciamo, ma pensiamo anche tanti che non conosciamo, quindi vorremmo parlarne anche per capire come affrontare questa cosa collettivamente, hanno ricevuto un avviso orale dalla questura, che è appunto una misura che va a prescindere dall'autorità giudiziaria. Quindi questi probabilmente saranno i prossimi argomenti. Noi siamo felicissimi di collaborare con Radio ZM, sostenitori della vostra Nonostante ci radio e spazio. lavorino persone di dubbia eticità e morale, come sottoscritto, come Lorenzo, come un altro genitore, ma c'è anche gente Ma brava, c'è proprio per Gigi, questo, proprio per c'è questo. Giulia, c'è Lorenzo, non siamo soltanto persone abbiette come me. Va bene, va, allora diteci un po' che la canzone volete ascoltare, io vedo se la troviamo nella nostra libreria è comodo, se no dobbiamo stare ancora 3 minuti insieme che mentre che la cerco. Vai, ditemi il titolo. Io proporrei una canzone del 2006-2008, ma penso più 2006, di Noyz Narcos con Cicoria Infame, che parla appunto proprio di carcere, precisamente. Perfetto, allora ringraziamo Sid, ringraziamo Mauri per queste chiacchiere sull'iniziativa sul carcere. A risentirci, troverete sul podcast Grazie a voi. tutto il necessario. Noi manderemo questa intervista sulle ondulatissime frequenze di Radio ZM. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto. Grazie Mauri, grazie Sid. Infame, Noyz Narcos, Fiat Cicoria. Ciao, ne? Grazie Proprio fortunato, l'ho trovato un posto affittato proprio prima che finisse il fiato. E io non ho mai cantato e non canto, sei tu che te la canti con quei stronzi degli agenti. Carogna, arretata a vicolo del Bologna. Le tempo ne è passato, ma io non sono mai cambiato. Cazzo farei, ben paro d'euro, zero problemi, a mali estremi, estremi rimedi. Ma che non ci credi, che anni ho mosso il moffo a buffo e sto ancora in piedi. Io non mi fido della gente perché a Roma serve. Non dico niente, odio le guardie, sono tutte merde. C'è quando puoi o devi farti i cazzi tuoi, vedi. Dal mio un po' il nome mio non lo rimedi. In piedi 3 metri per 2, la bocca cucita. Per 30 ore dentro odio quell'infame a vita. La mia sfida è giornaliera, voglio la tua vita in miseria e nessuna galera. La giuria ha già letto, il mio verdetto è negativo. Firmo e sopravvivo fino al prossimo giorno cattivo. C'ho le Nike senza lacci, sequestrati. Stacci, non sai quanti ci si sono impiccati. Cancelli dati miei dai terminali. Ho nel cervello guardie e cani e spese processuali. Vorrei morti le spie, magistrati e DM. Per gli spinte e gli infami alle antenne. Dice clan rap, parla o slang di sordi facili e spazzini. So cazzi acidi senza muovete sui scalini. Dal taglierino al farfalla, ancor po' a palla blindata. Ah, carta intestata, carabinieri, Regione Lazio. Un'altra indagine del cazzo, diretta dalle celle di Venzecci. E cerchi da 100 celle a Bravetta. Dove c'è pe? La mia croce strada, secchi, i miei occhi fatti. Vedono sirene, si muovono a scatti. Sto a vedere, muovere valigie, colpi di polvere grigie. I miei cani drizzano le orecchie quando fiutano gli infami. Se domani uno di noi non starà più qui fuori, ogni sbirro qui di fuori mi auguro che muori. Non voltarti e corri, niente spiegazioni, niente sul verbale, niente funerale dei fiori. Siamo interessati di questa cosa, della situazione sanitaria all'interno delle carceri, di diciamo un po' tutti gli eventi che sono successi da questo mese a questa da un mese a questa parte, quindi più o meno dalla notizia della diffusione, della possibile diffusione e della situazione sanitaria riguardo al virus in carcere, quindi della rivolta del 7 marzo e tutti gli eventi successivi. Non so se vogliamo fare magari una panoramica di tutto quello che è successo in questo mese. Sì, ok, Eugenio, cominci tu. sì, velocemente. Prima di tutto, non se ne sa molto, come sempre, di quello che succede nel carcere. Se vogliamo e volete acquisire notizie più aggiornate e forse più corrette, quello che vi consiglio è sempre quella di guardare la pagina del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, che è il dottor Palma. Ogni giorno, da quando è scoppiato l'epidemia, forniscono un bollettino ufficiale dove sono inserite tutte le informazioni, tutti i numeri relative alle detenzioni, perché in realtà, oltre a riportare tutti i dati sulle carceri italiane, riporta gli aggiornamenti anche sulle altre detenzioni, come la detenzione amministrativa, quindi ci sono i dati riportati sui CPR, ci sono i dati riportati sulla RSA, quindi tutta una serie di dati molto, molto interessanti. Per quanto riguarda l'ultimo bollettino, quindi le ultime notizie ufficiali, che è fermo al 9 aprile perché riprenderà dopo Pasqua, sappiamo che quello che è comunicato dalle carceri è che al momento, per quanto riguarda lo sviluppo del virus, abbiamo circa 60 detenuti positivi, anche se proprio in questi giorni sono scoppiati due nuovi focolai abbastanza importanti, uno nel carcere di Torino, dove sono stati trovati una ventina di persone positive, e l'ultimo, e non rientra tra gli aggiornamenti, è San Vittore, dove proprio in questi giorni anche qua hanno trovato 7-8 persone positive. Questo è il numero dei detenuti. Ovviamente non ci sono solo i detenuti che sono positivi, anzi la stragrande maggioranza delle persone che girano intorno al carcere che sono positive sono le persone amministrative e gli agenti della polizia penitenziaria. Gli agenti della polizia penitenziaria che sono positivi sono circa 200, quindi sono abbastanza. Sono ancora numeri che sono sotto controllo, perché noi stiamo parlando di una popolazione di detenuti di circa 60.000 e ovviamente poi adesso non so quali sono il numero delle persone amministrative della polizia penitenziaria, quindi stiamo ancora a un dato piuttosto basso. Non sappiamo però se questo dato basso è dovuto al fatto che tamponi non ci sono controlli adeguati. La sensazione è quello che dicono tutti, che si tratti di numeri in realtà molto, molto maggiori. Ok, quindi questa è la prima premessa. Poi dobbiamo parlare, secondo me, magari poi affrontiamo dopo quello che è successo l'8 e il 9 marzo nelle varie carceri. Dobbiamo vedere che cosa è stato deciso per porre rimedio a questa situazione del sovraffollamento. Noi siamo partiti il 29 febbraio con una popolazione carceraria, quindi quando il virus si era appena propagato, eccetera, di 61.000 persone. La capacità degli istituti è formalmente di 50.000, ma in realtà, siccome ci sono molte raggi, quindi molte sezioni di questi carceri che non sono, sono in disuso, la reale capacità delle carceri è di 45.000. E quel numero lì adesso è diminuito, adesso vedremo perché. In realtà l'ultimo aggiornamento che trovate sul bollettino del 9 aprile del Garante parla di 56.000 detenuti, quindi comunque c'è stata una diminuzione dei detenuti. Adesso magari cerco di spiegarvi perché. Quindi per porre rimedio è stato fatto in realtà all'interno di uno dei vari decreti che ci sono stati in questo periodo un provvedimento sulla possibilità di concedere in misura più ampia la detenzione domiciliare. Adesso poi senza spiegare bene di cosa stiamo parlando. In realtà è un provvedimento che magari poi lo sa anche benissimo Guido, in realtà è una detenzione domiciliare per le persone che hanno una pena da scontare inferiore ai 18 mesi. Però questa detenzione domiciliare è stata in qualche modo snellita perché sono stati aboliti, diciamo, alcuni controlli burocratici per renderla un po' più facile. Però è stata al contempo collegata alla necessità per le pene tra i 6 mesi e l'anno e mezzo di attuare la detenzione domiciliare con il braccialetto elettronico, che è uno strumento totalmente inefficace ed è uno strumento che è già conosciuto da noi avvocati, perché ne sarebbe stata prevista l'applicazione per quanto riguarda non le misure definitive ma le misure in attesa di giudizio, quindi la custodia in carcere, gli arresti domiciliari. Ne è già stata prevista l'applicazione nel 2014, ma in realtà, ecco, questo è un dato interessante, poi ne parliamo, ma in realtà questi braccialetti non ci sono, non sono mai stati costruiti, i bandi sono andati a vuoto, c'è un nuovo bando del 2018 di Fastweb, ma poi questi braccialetti non so perché non sono stati costruiti. Quindi uno strumento totalmente inefficace, che abbiamo visto che non era efficace per le misure cautelari, e il nostro ministro e il nostro governo ha pensato bene di traslare questo meccanismo che non funziona per portarlo per le misure per i definitivi. E quindi sostanzialmente cosa è successo? Che praticamente quasi nessuno è uscito per in forza della detenzione domiciliare stabilita in questo decreto legge. Mi hanno dato un dato delle carceri milanesi. Nelle carceri milanesi sono uscite 5 persone a cui è stata concessa la detenzione domiciliare. Però perché si sono svuotate? Perché in parte si sono svuotate, sono uscite, abbiamo visto, circa 5.000 persone, sono uscite 5.000 persone perché sono diminuiti in maniera sostanziale gli ingressi in carcere, quindi non ci sono nuovi ingressi, perché normalmente le persone entrano e escono, più entrano che escono, ma non essendoci stato un ricambio, questo ha determinato sicuramente una contrazione del numero. E poi, quantomeno in alcuni, questo vale per alcuni tribunali di sorveglianza, i magistrati di sorveglianza si sono attivati in qualche modo per far sì che le decisioni del tribunale sulle varie istanze che erano pendenti di misure alternative fossero un po' più veloci, attraverso un meccanismo di concessione provvisoria della misura e una rivalutazione successiva, una concessione provvisoria da un singolo magistrato, mentre la decisione dovrebbe essere collegiale di 3 giudici, ma questa decisione collegiale viene rimandata a un momento successivo. Questo ha determinato effettivamente quantomeno una contrazione del numero, che non è però sufficiente. Quindi questo è una prima, un attimo, ricostruzione dei numeri e di qual è l'effettiva situazione. Ok? Avete domande su questo? Guido, aggiungere qualcosa? No, sei stato chiarissimo. Io peraltro non ero così attento sui numeri che tu conosci meglio di me. No, sei stato chiarissimo. Da parte mia posso solo aggiungere questo. Il quadro che ha fatto Eugenio è quello che ha descritto. La situazione nelle carceri italiane è drammatica da tempo. E io, ecco, mi viene da dire adesso che il primo e migliore strumento che dovrebbe essere utilizzato, ma non solo in questa situazione emergenziale adesso, ma di regola nel nostro paese, e dico probabilmente un'ovvietà che anche Eugenio sicuramente condividerà, dovrebbe essere l'uso corretto, non timoroso e non vigliacco da parte della magistratura di sorveglianza delle misure alternative, perché veramente, senza timore di essere smentito, basterebbe veramente un'applicazione, non dico più ampia, ma corretta, secondo quelli che sono i parametri delle nostre leggi, del nostro ordinamento penitenziario, perché le carcere potrebbero trovarsi in questa situazione, non si trovano in questa situazione. Io no, se posso aggiungere la situazione che ha descritto Eugenio, guarda, ho 2 casi proprio concreti che danno, secondo me, il segno di quale siano i problemi e di come potrebbe essere risolto il problema sovraffollamento. Io ho per il quale la mia attesa di un ordine di esecuzione per una pena abbastanza elevata, e parlo di una pena intorno ai 7 anni, pena che diciamo conseguenza di della somma di due diverse condanne, che era diventata definitiva a gennaio. Eravamo in attesa da gennaio di questo ordine di esecuzione, sapevamo che sarebbe doveva essere eseguito, e più il tempo passava, più ci dicevamo magari aspettano un attimo, non sono per reati particolarmente violenti né per cose di allarme sociale, si parla di reati fiscali e finanziari, però per una pena consistente. Vabbè, per farla breve, dopo 2 mesi che non veniva notificato, 1 mese e mezzo che non viene notificato l'ordine di esecuzione, ci siamo quasi messi tranquilli. L'intelligenza e la lungimiranza della nostra procura è stata quella di far eseguire l'ordine di esecuzione il giorno 5 marzo, quando in Lombardia avevamo già una situazione di scuole chiuse da 2 settimane, di tribunale parzialmente chiuso, di casi di morte, e nonostante questo nessuno all'interno della procura, perché adesso ne parlano adesso di circolari, di evitare gli ingressi, ma ecco, nessuno il 5 marzo ancora aveva pensato a emettere una semplice circolare da comunicare ai carabinieri e alle forze dell'ordine e dire non eseguite nessun ordine di esecuzione se non i casi particolarmente gravi. Questo è il primo caso concreto che ho avuto qua, proprio tangibile. Il secondo è invece, per fortuna, per sottolineare l'operato talvolta positivo della magistratura di sorveglianza. L'altro caso che avevo era invece una persona detenuta da tanto tempo, da 5 anni in carcere, ormai definitiva anche lui da tempo, era una pena, un residuo pena che gli consentiva l'applicazione della misura dell'affidamento in carcere. Avevamo discusso la camera di consiglio a fine gennaio e nonostante pareri positivi, un percorso carcerario perfetto nei 5 anni, pareri positivi di tutti i servizi sociali, assistenti sociali, psicologi del carcere, direttori del carcere di Monza, il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato in maniera, adesso non voglio entrare qua in polemica, in maniera assurda la concessione dell'affidamento in prova. Per fortuna, dietro il sollecito di una parte della magistratura di sorveglianza, il caso è stato ripreso in mano 2 settimane fa e, come diceva Eugenio, un magistrato di sorveglianza di Milano diverso dal presidente che aveva escluso la concessione in sede collegiale, questo magistrato da solo, e quindi, come diceva prima Eugenio, quindi attraverso una modalità molto più rapida, quindi attraverso la concessione dell'affidamento in prova in misura, diciamo, immediata e urgente, gli ha concesso l'affidamento in prova. Però, a mio avviso, questo caso qua dimostra proprio come purtroppo si siano mossi in maniera tardiva, lenta, e come il caso di questa mia persona poteva essere risolto 2 mesi fa, a fine gennaio, è stato risolto invece soltanto a metà marzo e soltanto perché ci troviamo in emergenza sanitaria. Esatto, e questo è il problema, perché sostanzialmente hanno dato la misura alternativa un pochino più veloce, ma gente che doveva già avere. Aveva già diritto. Tutte persone che ne avevano già diritto. Il problema è che adesso in carcere ci sono persone che sono nei limiti per richiedere misure alternative, ma si è bloccato tutto il percorso trattamentale, perché i detenuti, per ottenere misure alternative, comunque devono seguire un percorso, devono passare attraverso determinati momenti, ci vuole una relazione di sintesi, ci vuole un giudizio degli educatori, del personale esterno, insomma, ma tutto questo è sospeso, perché nel carcere sono sospesi gli ingressi, non possono entrare quelli dei servizi del SERT esterni, che devono magari preparare i programmi esterni per gli affidamenti per i tossicodipendenti, insomma, è tutto bloccato. Questo, in questo momento, sta determinato che alcune domande non possono neanche essere avanzate, anche se formalmente queste persone sono nei termini per farle. Questo è un problema gravissimo. Quindi adesso c'è stato questo numero, ma adesso si bloccherà tutto, le persone rimarranno in carcere. Io di riflesso come avvocato, ma il mio cliente va riconsiderato molto, ma molto fortunato, perché appunto il rigetto di gennaio era stata una cosa talmente scandalosa che gli stessi servizi sociali all'interno del carcere non ci credevano, e loro stessi, dietro impulso mio e del collega con cui difendo questa persona, avevano a metà marzo, intorno a lui, è uscito 10 giorni fa, a metà marzo avevano loro per primi inoltrato una nuova istanza. Se no, come dice Eugenio, quello che possiamo fare noi avvocati adesso è praticamente nulla, perché tra coronavirus e l'incendio del 7° piano le istanze che provengono dagli avvocati non vengono neanche guardate. No, ma poi sono inutili se comunque non sono accompagnate da un programma approvato dal carcere. Quindi ci vorrebbe inserire delle cose diverse. Sì, è un meccanismo virtuoso in base al quale i servizi sociali potrebbero dal carcere far partire tutte quelle istanze di affidamento in prova, sia sotto forma di collegiale che sotto forma urgente provvisorio, per quelle pene che possono rientrare. Quello potrebbe essere un meccanismo virtuoso, sì, per innescare l'uscita di un po' di persone, ma dubito che possa essere messo in atto, se non in singole casistiche, dove appunto ci metto dentro il mio caso fortunato, ma lo vedo come un'eccezione. No, ma è ovvio. Ci vorrebbe un provvedimento legislativo. Bravo. Sono state fatte delle proposte, e però con questo tipo di governo sono proposte che sono solo belle, ma rimarranno sulla carta, perché erano sostanzialmente 3 le proposte. Una, quella che un po' adesso, anche se Guido è stato sfortunato, è il blocco degli ingressi nuovi. Quindi il blocco degli ordini di carcerazione per pene non elevatissime. Secondo me una pena di 7 anni non è una pena elevatissima. L'altro sarebbe quello di, in questo momento, i tribunali di sorveglianza non hanno i numeri per poter decidere le istanze. Come vi ho detto, molte istanze non sono neanche accompagnate dalla documentazione necessaria. Allora ci dovrebbe essere un automatismo. I detenuti che formalmente rientrano nella possibilità di chiedere una misura alternativa devono essere scarcerati con un ordine di carcerazione per la pena che rimane da scontare, che verrà valutata, quindi verrà valutata successivamente quando il periodo sarà migliore, verrà valutata dal tribunale di sorveglianza. Nel frattempo, come per le persone libere, l'ex detenuto farà la richiesta di una misura alternativa, prenderà contatti con i servizi sociali, prepareranno un programma, a quel punto sarà rivalutata tra 6 mesi, 7 mesi, quello che è, dal tribunale di sorveglianza, che io secondo me in questo modo penso che l'80-90% di queste istanze poi saranno giudicate in maniera positiva, perché ci sarà il tempo per elaborarle in maniera corretta. Se no, altrimenti, se verrà giudicata in maniera negativa, la piccola parte, per carità, rientrerà in carcere, ma almeno si sarà avuto la possibilità di svuotare effettivamente il carcere in questo momento. E poi potrebbe instaurarsi un meccanismo virtuoso e finalmente ridurre gli ingressi in carcere. Poi non abbiamo parlato, che è anche l'altro provvedimento che andrebbe preso, è che nessuno parla della questione dei detenuti in attesa di giudizio, che sono tantissimo. Comunque i detenuti in carcere che non hanno una sentenza, i detenuti in attesa di giudizio mi sembra che siano intorno ai 10.000, quindi tantissimi. E complessivamente i detenuti che non hanno ancora avuto una sentenza di condanna definitiva, quindi che non è stata convalidata poi dalla Corte d'Appello, eventualmente poi dal giudice di legittimità, dal giudice di Cassazione, sono complessivamente 20.000, quindi sono complessivamente un terzo delle persone detenute. Si dovrebbe trovare anche qua un meccanismo per stabilire che in questo momento, peraltro è già abbastanza previsto, la misura cautelare più grave da applicare è quella degli arresti domiciliari. Basterebbe applicare il codice, esatto, correttamente. Però si potrebbe imporlo in maniera più diretta. Si applica solo gli arresti domiciliari. Poi si può studiare qualche ipotesi particolare dove è necessario applicare la custodia in carcere, ma dovrebbe essere proprio ancora più residuale di quello che è previsto adesso nel nostro codice di procedura penale. Un genio. Ci però sono meccanismi che tanto rimangono sulla carta, cioè sarebbero belli, ma non è così. Tra l'altro, le persone che sono state scarcerate e che hanno avuto appunto gli arresti domiciliari, sto riferendo alle persone in attesa di giudizio, sono quelle che hanno beneficiato meno, cioè sono quelli che sono rimasti in carcere. Volevo dire che ci troviamo di fronte, mentre parliamo della popolazione carceraria, ad una popolazione particolarmente fragile, con un altissimo numero di malati cronici, di patologie croniche, con problemi a livello cardiocircolatorio e polmonare, tra l'altro un'altissima percentuale di dipendenti da sostanze stupefacenti e di tabagisti. Il che è, come sentivo ieri sera detto da uno che parlava appunto del Covid, carne da macello, carne da Covid, in un affollamento che, come già dicevamo, è pazzesco. In tempi normali una cosa del genere è una deliberata strage, mi viene da dire, perché questa è una popolazione a rischio tanto quanto le persone in RSA, se non di più, per i mille motivi di cui sopra, senza contare che appunto il carcere non ha la possibilità di avere strutture adeguate per l'isolamento dei casi di contagio e di protezione, se volete, degli operatori e degli altri detenuti. Aggiungo un ultimo pezzo. Chi poi eventualmente avesse la possibilità di farsi curare, cioè venisse trasferito dal carcere ad un reparto cosiddetto protetto, e ce n'è relativamente pochi a Milano, rischia di non trovare comunque una struttura adeguata alle sue necessità di salute e a quello che servirebbe per appunto tenerlo in vita, perché reparti del genere non sono attrezzati per fare da rianimazione, per fare tutte quelle manovre che sono necessarie nel trattamento di casi da Covid e casi fragili di questo tipo. Vorrei aggiungere un'altra osservazione. Se è possibile, cioè, nella nostra esperienza di comitato di lotta per la casa riscontriamo anche un ulteriore problema nell'applicazione e nella concessione di questo beneficio della detenzione domiciliare. Dal momento che fra le cause ostative alla possibilità di accedere alla detenzione domiciliare già nella disciplina originale della legge 199 del 2010 vi è anche l'assenza di un domicilio effettivo che si possa considerare idoneo per poter usufruire appunto alla detenzione domiciliare. Il problema è stato che si è aggiunto nel 2014 per effetto dell'articolo 5 della legge Renzi-Lupi l'impossibilità di attribuire alle persone che vivono in luoghi occupati o comunque abusivi la residenza e qualsiasi possibilità di sottoscrivere contratti con utenze, e quindi di conseguenza per effetto della legge Renzi-Lupi possiamo dire che è stata estesa grandemente la categoria ostativa delle persone che sono prive di un domicilio effettivo e considerabile idoneo per poter usufruire della detenzione domiciliare, e di questo non viene fatto menzione, non viene nemmeno lontanamente preso in considerazione dagli organi di governo e dalle persone responsabili in genere. E quindi troviamo in generale questo decreto legge estremamente limitato, se non addirittura molto, diciamo, di facciata, ecco. Vero. E poi c'è da aggiungere che il decreto Salvini, non mi ricordo se l'uno o il due, ha anche espressamente introdotto una modifica agli arresti domiciliari e alla detenzione domiciliare, stabilendo appunto che non si può richiedere questa misura in una casa occupata. Agitazioni ce ne sono state già prima dell'8 di marzo, l'8 di marzo ci sono state quelle rivolte, ma continuano tuttora a quanto pare. Abbiamo tutti i giorni aggiornamenti da diverse carceri in tutta l'Italia, anche di mobilitazioni di amici e parenti, dei familiari che appunto addirittura fidano il decreto e scendono in strada e vanno a portare solidarietà, o comunque a manifestare dissenso, se volete. Sì, allora, come dicevi tu, i primi disordini, poi rivolte è un po' una parola un po' grossa che a me non è che piace moltissimo. Poi dipende dalle varie realtà. Posti, in alcuni posti, tipo Modena, effettivamente è successo un gran casino, ma in altri posti molto meno. Poi magari è stato un po' enfatizzato dalla stampa. Comunque, i primi disordini sono stati l'8 e il 9 marzo, sono collegati alla comunicazione, quindi alla decisione di bloccare i colloqui visivi all'interno del carcere, quindi colloqui tra detenuti e familiari o comunque persone che avevano l'autorizzazione a effettuare questi colloqui, oltre alle proteste legate alla situazione igienico-sanitaria all'interno degli istituti, soprattutto in conseguenza del Covid. Però diciamo che la cosa scatenante è stata quella della comunicazione ai detenuti di questa sospensione dei colloqui. Questo ha determinato una serie di proteste, purtroppo sappiamo anche che sono successi dei fatti gravissimi, perché sono morte, non sappiamo neanche esattamente il numero, 12, 13, 14 persone, non è ben chiaro neanche quello. Non è chiaro neanche perché queste persone siano morte, o almeno vi è una risposta ufficiale da parte del Ministero, ma neanche relativa a tutte le persone, e alcune di queste sarebbero morte a causa di un'overdose di sostanze, quindi un'overdose di sostanze che soprattutto penso metadone, che i detenuti hanno trovato nelle infermerie. Non so cosa dire di questa cosa qua, io non ci credo, ma non ho ovviamente dei dati, al momento non ce li ha nessuno, perché sono state fatte tantissime interrogazioni parlamentari, ma risposte sul punto non ci sono. Ovviamente ci sono delle indagini aperte su questi vari episodi, ci sono delle indagini aperte anche a Milano per quello che è successo a San Vittore e per quello che è successo a Opera. Io l'unica cosa che so è so qualcosa di quello che è successo a Opera, il nuovo detenuto di Opera che ha partecipato a quei disordini, e dopodiché ha subito delle ritorsioni e due settimane dopo ha subito un vero e proprio pestaggio da parte dei secondini all'interno della sua cella. Quello che mi è stato raccontato da questo detenuto è che effettivamente nel pomeriggio del 9 marzo, quando il direttore si è recato in questo reparto, perché sostanzialmente i fatti sono avvenuti in un piccolo reparto di Opera, il direttore si è recato appunto in questo reparto, ha parlato ai detenuti al di là di un cancello, ha comunicato questa cosa e i detenuti hanno cominciato a rompere alcuni oggetti, a rompere dei vetri, e in una parte, in alcune celle, è stato dato fuoco a dei materassi e ad alcuni oggetti. La situazione, diciamo che si è calmata dopo un paio d'ore, e dopo un paio d'ore c'è stato l'intervento dei GOM. Il GOM è il reparto, diciamo, il reparto mobile della polizia penitenziaria, quindi il reparto che ha in dotazione scudi e manganelli. Ok? Perché voi dovete sapere che in realtà all'interno degli istituti penitenziari, le guardie penitenziarie non hanno alcun arma, non hanno manganelli, non hanno niente, non possono circolare nelle sezioni del carcere con armi, eventualmente solo se appunto ci sono dei disordini e su espressa autorizzazione del direttore, del comandante delle guardie, ci può essere un intervento di questo tipo. Quindi è stato autorizzato questo intervento, però dopo un po' di tempo, quando la situazione era piuttosto, era tornata, tra virgolette, diciamo, alla normalità. Sicuramente c'era ancora un momento di tensione. Sono entrati in questo reparto, i detenuti sono andati dentro le loro celle e cella per cella, questo mi ha riferito il mio cliente, poi a me, io ci credo abbastanza, cella per cella sono entrati e hanno incominciato a manganellare molti detenuti, una trentina di detenuti. Questo è quello che sarebbe successo. So che poi il giorno successivo o due giorni dopo è entrato in carcere anche un magistrato di sorveglianza, il garante dei detenuti di Milano, e il garante dei detenuti di Milano so che poi ha presentato un esposto in procura per quello che è successo Opera. Quindi questo io lo so perché mi è stato raccontato direttamente dal mio assistito. Il mio assistito poi dopo, nei confronti di questi detenuti, sono state prese delle misure piuttosto repressive per quanto riguarda i pochi diritti di cui godono, nel senso che gli è stato impedito di usufruire delle ore d'aria, si sono ritrovate le celle chiuse, mentre in realtà le celle ad Opera in quel reparto erano aperte per tutto il pomeriggio, sono state chiuse, gli è stato impedito di comprare il cibo e quindi sono stati costretti a mangiare al carrello, che è una cosa per voi magari non è così importante, ma in realtà per i detenuti è molto importante che nessuno mangia, quasi nessuno cerca di mangiare le cose che vengono passate dal carcere, ma si costruisce una piccola comunità, ognuno si cucina da solo, c'ha i suoi alimenti, eccetera, eccetera, quindi è stato impedito anche questo. E altre serie di limitazioni, tra l'altro questi detenuti non avevano accesso ai colloqui con la modalità, che poi è stata introdotta, una modalità via Skype o via telefono con i familiari. Quindi hanno avuto questa serie di limitazioni. Il mio, la persona che ho sentito qualche giorno dopo, mi sembra 20-21 marzo, si stava lamentando con una guardia per questa situazione, e dopo che si è lamentato c'è stato un diverbio verbale e un'ora dopo si sono presentati sei secondini nella sua cella, hanno diviso il detenuto, il concellino che hanno messo in bagno, e lui l'hanno buttato per terra e gli avrebbero dato un sacco di calci. Questo è quello che ha raccontato. Abbiamo depositato una denuncia, abbiamo inviato in procura, al garante, al dipartimento di amministrazione penitenziaria. Insomma, adesso vedremo poi che cosa succederà. Sicuramente questo conferma che le cose sono complesse, c'è una situazione veramente molto, molto instabile, molto pericolosa all'interno delle carceri. Guido, vuoi aggiungere qualcosa? Mi viene da dire anche, non so se ne avete parlato prima, che non riuscivo a connettermi, anche come appunto diciamo la popolazione che si è rivoltata o comunque viene sospettata di essersi rivoltata, poi comunque ha subito, oltre a pestaggi, trasferimenti e diciamo ritorsioni di ogni tipo, poi è stata anche esclusa da ogni misura di possibile detenzione domiciliare. Non so se ne avete parlato. Okay. Sì, nel decreto legge che ha previsto questa estensione della detenzione domiciliare, ma che, come abbiamo visto, non è una misura che non conterà nulla, è stato previsto appunto l'impossibilità di concedere questa detenzione domiciliare a tutte le persone che hanno partecipato ai fatti dell'8 e del 9 marzo. Ma comunque chi ha partecipato avrà una sintesi, una relazione così negativa che difficilmente potrà accedere a tutte le misure alternative. Okay. Quello che mi chiedevo, infatti, tu stavi prima iniziando a dire dall'esterno che bisognerebbe fare qualcosa. Tipo, ho letto, forse sono un po' di parte, ma a Napoli ci sono stati dei blocchi fuori al carcere da parte dei familiari. Chiedevo quanto potrebbe essere, cosa rischieremmo noi a fare cose fuori al carcere, azioni fuori al carcere di massa, di protesta o in città, qualsivoglia, in questo momento di quarantena obbligata. Non ho risposta, ho risposta nel senso che le conseguenze rischiano di essere molto pesanti per chi si mette a protestare adesso all'esterno. Al tempo stesso non si può pensare di lasciare i detenuti abbandonati a se stessi. La risposta non ce l'ho. Sono dell'idea, lo ripeto, che la forma di lotta all'interno del carcere ha sollevato il problema, ma rischia di diventare un'arma a doppio taglio, perché a mio avviso poi le conseguenze che poi rischiano di subire e patire quelli che si espongono in prima linea all'interno delle carceri sono pesanti. E non so quali effetti benefici possa sortire. Non ho una risposta. A mio avviso il pallino ce l'ha in mano la magistratura. Non voglio come essere sempre critico, però è così. Faccio il penalista ormai da 20 anni e quindi la magistratura la vedo purtroppo come l'avversario, ma è così. Come diceva prima Eugenio, basterebbe che d'ufficio sti cazzo di giudici cominciassero a mettere ai domiciliari le persone che sono in carcere e in attesa di processo quando possono andare a domiciliari, nel senso che una situazione di questo tipo emergenziale, a parte il fatto che, diciamocelo chiaramente, ci sono 1000 casi che invece di stare in carcere potrebbero stare ai domiciliari, ma così, sulla base semplicemente delle carte processuali, e quindi quelli sono già una categoria. In più ci potresti mettere dentro anche quelle posizioni che magari sono un po' in bilico, ma con la situazione emergenziale potrebbe esserci, non dico un occhio di riguardo, ma un'attenzione umana, al diritto alla salute, e di conseguenza accelerare minimamente la concessione dei domiciliari. Ma questo, cioè, come diceva prima Eugenio, se adesso noi avvocati facciamo le istanze che non possiamo neanche andare a depositarle fisicamente in tribunale e dobbiamo andare per posta, ma non ce le leggono neanche, se le leggono le cestinano. E quindi per questo dico, il pallino ce l'ha in mano la magistratura, che si muovessero i magistrati, che ecco, forse lo strumento che abbiamo noi da fuori è attraverso noi avvocati, penalisti, ma anche la società civile, dire oh, ma guardate che qua potete dare voi gli uffici domiciliari a chi è in carcere in attesa di giudizio e ha diritto a stare domiciliari. Non dico i casi limite di chi vive in una casa occupata o è senza casa, ma ci sono anche una bella fetta di casistiche di persone che stanno in carcere perché li hanno sbattuti dietro e punto e basta. Quindi cominciamo a mandare domiciliari chi puoi mandare, cominciano a eseguire gli ordini di esecuzione come paiono faccia, che stiamo facendo, e comincia a, attraverso la magistratura di sorveglianza, a concedere l'affidamento in prova in maniera urgente o la detenzione domiciliare a tutta quella casistica che tengono bloccata per i loro interessi e che adesso, per una questione di emergenza sanitaria, sociale ed economica, devi smuovere. Quello forse, secondo me, sto chiacchierando, potrebbe essere la cosa: fare pressione, non so in quale modo, sulla magistratura, mettere nero su bianco, ripeto, magari partendo dagli avvocati, dagli ordini di avvocati, dalle camere penali e anche dalla società civile, dai compagni, da voi e da chi lavora come voi, di dire: oh, ma perché non vi svegliate invece di andare a raccontare dei braccialetti elettronici di qua, di su, dell'indulto, dell'amnistia che non farà mai fatta? Cominciate a mandare a casa tutti quelli che possono essere mandati a casa, facendolo voi d'ufficio. E poi vediamo quanti numeri, di quanti numeri si abbassano la popolazione carceraria. 30.000 persone sono detenute in carcere con pene basse e potrebbero usufruire delle pene alternative. Ok, molte di queste magari le usufruiranno, ma più della metà sconteranno tutta la pena perché non possono accedere alle misure alternative. Quindi è un problema anche ovviamente più grosso, cioè un problema, inutile che lo spieghi a voi, è un problema di welfare, di sistema. Quindi questo è. Alla fine non è un caso che la popolazione carceraria sia costituita per un buon numero di detenuti stranieri, perché i detenuti stranieri sono quelli, rispetto agli italiani, che hanno più difficoltà ad accedere alle misure alternative. Certo. È molto banale. In carcere ci stanno gli ultimi. Alla fine i ricchi in qualche modo ne escono, anche se per caso dovessero entrare, in qualche modo ne escono. Un anno e mezzo, sei mesi, tre mesi, alla fine ne escono, ma tutti. E invece lo straniero senza permesso di soggiorno, no, rimane lì e si sconta tutto. Questo è. E quindi anche dopo eventuali sentenze di condanna della Corte di Strasburgo, piuttosto che eventuali leggi svuota carceri, comunque voi dite che il problema è un problema sistemico dell'ordinamento penale penitenziario, che fa sì che ma non solo, è un problema generale di come è fatto il nostro sistema, è così, è ancora più alto del problema dell'ordinamento penitenziario. E non discordiamo, se non c'è tutela verso le classi più deboli, è ovvio che non ci sarà tutela di queste classi deboli quando entrano in carcere. Dunque, prima, parlando delle vittime della repressione nel carcere, ci sono comunque dati di detenuti morti, deceduti, e di indagini aperte da parte della magistratura. Quindi ecco, vorrei chiedervi, secondo voi, quali sono gli scenari futuri per lo sviluppo di queste indagini, su chi potrebbero ricadere le responsabilità di questi eventi, ecco. Bella domanda, ma non ho la minima idea, perché nel senso che le informazioni sono così poche, si sa veramente quasi nulla, a parte quella cosa strana della morte per overdose, che non ti saprei dire. Mi sembra che ci sia tutto l'interesse a un po' a nascondere quello che è successo, però questa è una mia sensazione, non saprei. Non voglio essere No, scusa, interrompo, pensavo avessi finito, che non voglio essere pessimista, ma se Jacopo si riferiva alle indagini sulle morte in carcere, sono chiuse, sono tossici che si sono presi l'overdose, questo sarà quello che verrà, si chiuderà l'indagine così. Non voglio essere pessimista, ma do per certo che quella sarà la chiusura, a meno che poi non trovino i corpi pestati e ammaccati, ma a mio avviso, non voglio essere pessimista, ripeto, ma purtroppo quelle indagini lì finiranno in un nulla, come tutti i detenuti che muoiono quotidianamente in periodo normale nelle nostre carceri. Non lo so, Eugenio sicuramente è più sul pezzo di me, ma non so cosa muore un detenuto al giorno nelle carceri italiane, qual è la media annuale? Ah, più o meno sì, cioè, più o meno sì. Intanto vi salutiamo e vi ringraziamo tantissimo per questa videochiamata e di tutto quello che ci avete. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.